distanza non è quello importante. Io cielo adesso è vuoto, un bel po' cerco una stella cadente. A cavalcare un po' questo fuggire dalla paura quella di dividere. Parlami un po' di casa, non so, io ho deciso che non mi basta stare a guardare in silenzio, ascoltare, ma adesso ti prego resta. Resta qui e raccontare di cosa deciderai di fare. Say it.